George Floyd è morto. 8 minuti di agonia, tante proteste, per ora nessun colpevole. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. We have two viruses in America, and that is the coronavirus as well as the virus of racism. A viral video shows Chauvin kneeling on George Floyd's neck for a number of minutes as Floyd repeatedly says, "I cannot breathe." Welcome back to our place of work. Buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, l'ultima puntata della settimana di Nessun Luogo Lontano, la squadra Antonio Taglia, Ilaria Sesana, Valentina Ternullo e Andrea Macchioni, oggi Laura Faggini in assistenza e in regia Roberta Frisani. 349-238-6666 per sms e whatsapp per domande e commenti, ma siamo anche sui social, Facebook, la pagina è Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24. Se amate Twitter invece, i due account da tenere d'occhio sono Nessun Luogo 24, ovvero il mio che è Giampaz. Lo avete sentito anche dal GR, sono ormai 3 le notti consecutive di proteste non soltanto a Minneapolis in Minnesota ma anche in altre città americane, da Denver in Colorado a New York. Perché cosa? Perché per il momento non c'è un colpevole, non c'è una risposta a quel video agghiacciante, straziante, 8 minuti in cui un cittadino afroamericano 46enne reo di aver tentato di acquistare dei beni con delle banconote false, ammanettato e arrestato, viene sostanzialmente ucciso in diretta con questi video girati dai telefonini che sono diventati drammaticamente virali. Così è montata la protesta soprattutto a Minneapolis, una città e uno stato in Minnesota che non aveva mai conosciuto reazioni così violente, con anche saccheggi e evidentemente anche inserzioni di facinorosi che hanno sicuramente alzato il livello della tensione. Oggi cercheremo di capire intanto perché l'ennesimo episodio non è una novità in alcuni stati degli Stati Uniti e soprattutto dov'è il problema. È un problema della società americana, è un problema di razzismo mai superato, è un problema delle forze dell'ordine, con le voci che arrivano direttamente da Minneapolis e i nostri ospiti cercheremo di capire lo stato dell'arte della società americana. E mentre arrivano già i primi messaggi al 349-238-6666, la prima cosa da fare naturalmente, come ogni giorno, è sfogliare i nostri dossier. Il primo che vi sottopongo è quello relativo ai rapporti tra Hong Kong e Cina. Pechino ha presentato proteste formali contro Stati Uniti, Gran Bretagna, Canada e Australia, perché proprio ieri questi quattro paesi hanno firmato una nota congiunta di condanna sull'imposizione da parte di Pechino della legge sulla sicurezza nazionale a Hong Kong, di cui tanto abbiamo parlato qui a Nessun Luogo è Lontano. Sostanzialmente, secondo i funzionari di Pechino, è una violazione diretta degli obblighi internazionali relativamente a quello che è il passaggio, la transizione dell'ex colonia britannica in seno poi alla Cina. Per il momento si tratta di schermaglie di diritto internazionale e diplomatiche, vedremo se il tono si alzerà. Tono che si è alzato su un altro dossier importantissimo che è sul tavolo di Pechino, così come sui tavoli qui della redazione di Nessun Luogo Lontano. La Cina intende attaccare Taiwan se non ci saranno altri modi di impedirne l'indipendenza. Il capo del Dipartimento di Staff Congiunto e membro della Commissione Militare Centrale, Liu Zhongcheng, ha detto che se si perde la possibilità di riunificazione pacifica, l'esercito di liberazione popolare con l'intera nazione, incluso il popolo di Taiwan, prenderà ogni misura necessaria per distruggere trame o azioni separatiste. Sapete che in questo momento Pechino, oltre a dover e respingere le tante accuse che arrivano a livello internazionale sulla mala gestione del Covid-19, si trova con veramente due punti di vulnerabilità enormi: da un lato le proteste di Hong Kong e dall'altro la stessa Taiwan, due spine nel fianco che secondo molti analisti costituiscono la vera emergenza per i prossimi mesi a venire. Taiwan ha replicato alle minacce dell'esercito cinese e ha detto che non sceglierà mai di essere un paese autoritario e di essere soggetto alla violenza. E poi vi sottopongo un'altra notizia. Dopo l'arresto in Francia di uno degli ultimi genocidari, parlo di quello del genocidio del 1994 dei Tutsi in Ruanda, l'alta corte ruandese ha condannato all'ergastolo un ex sindaco proprio per un ruolo simile nel genocidio del 94. Ladislas Ndankatazwa è stato arrestato nella Repubblica Democratica del Congo 5 anni fa ed è finito poi a processo recentemente. Era stato dichiarato colpevole di aver guidato, pensato personalmente, una serie di massacri di civili Tutsi, incluso un attacco a una chiesa in cui migliaia di persone si erano rifugiate. E naturalmente vi daremo conto dell'esito del processo, che si dovrà svolgere in un tribunale in Tanzania. E infine in Nigeria, dell'ultima quadrante che stiamo tenendo d'occhio anche per il weekend che verrà, mercoledì, la notizia arriva solo adesso però, 27 uomini armati hanno attaccato vari villaggi nel nord-ovest del paese causando almeno 60 morti, lo riporta la BBC Africa, uno degli attacchi peggiori degli ultimi anni a Sokoto. Siamo però nel nord-ovest, quindi non è zona di Boko Haram, è una zona più che altro di banditismo dove anche i rapimenti a scopo di estorsione sono molto molto frequenti, che denunciano ancora una volta la grande instabilità della Nigeria, un paese che viaggia decisamente a 2 se non a 3 velocità. Il sud molto ricco, cristiano, con postazioni petrolifere, quando dico molto ricco relativamente agli standard africani evidentemente, e un nord più agricolo e legato alla pastorizia, a maggioranza musulmana, molto spesso dimenticato dal governo centrale federale di Abuja. Questi i nostri dossier internazionali. Adesso Roberta Fisani, portaci negli Stati Uniti. Amazing grace, how sweet is the sound. Amazing grace, how sweet. I want to offer some amazing grace to the entire Floyd family that saved a wretch like me. Please, please, I can't breathe. Please, man. Police Chief James Craig says the death of George Floyd was murder. George Floyd was murder. Now I see. I believe what I saw, and what I saw was wrong at every level. At every level. Dangerous toils and snares. Residents again took to the streets to protest the death of George Floyd. We have two viruses in America, and that is the coronavirus as well as the virus of racism. The virus of racism. La voce finale che avete sentito è quella di Andrea Jenkins, è un assistente politico, una scrittore, un artista transgender, la prima donna transgender apertamente americana, afroamericana, eletta a cariche pubbliche proprio nel Consiglio Comunale di Minneapolis. Dice una cosa interessante, importante e drammatica: sono due i virus negli Stati Uniti in questo momento, il primo è il coronavirus e il secondo è il razzismo. Ecco, sono esattamente 8 minuti che siamo in onda, abbiamo iniziato questo programma alle 16:08, sono le 16:16, in quel momento Floyd, anzi in questo momento, è appena morto. E E dopo questo tragico episodio, tre notti di violenze, vandalismi e saccheggi, 500 uomini della Guardia Nazionale mandati a Minneapolis, i procuratori hanno promesso un'indagine rapida pur di alleviare la tensione. I quattro poliziotti però, che hanno fatto questo gesto incredibile alla luce del sole che tanti ascoltatori stanno stigmatizzando in questo momento al 349-238-6666, sono stati semplicemente licenziati, anche se capiremo meglio che già questo gesto del licenziamento, che noi appare, come dire, il minimo indispensabile, anzi quasi irrilevante, beh, è già un buon passo nel sistema americano. Poi dicevo, le proteste, non soltanto Minneapolis, Denver, Colorado, New York, a New York per esempio solamente in quella città 30 arresti. E poi ci si è messo anche il presidente statunitense Donald Trump, e mi perdonerete se uso questa espressione, ci si è messo, perché è vero che vi sono stati vandalismi e saccheggi, però nell'ultimo tweet, e sapete che c'è un contenzioso in ballo tra Donald Trump e il noto social media che ha etichettato alcuni suoi ultimi 5T come poco affidabili, ecco, l'ultimo è stato nuovamente bollato perché si è trattato a tutti gli effetti di un incitamento alla violenza. Sostanzialmente quello che ha detto è che quando si iniziano a fare vandalismi, noi si inizia a sparare. E poi, come ricordano alcuni ascoltatori al 349-238-6666, ci si è messa anche la CNN. Qui sono ferocemente ironico, perché Omar Jimenez, che è un giornalista appunto del grosso network americano, stava documentando in diretta quelli che erano gli scontri. Sentite qui cosa è successo. This is among the state patrol unit that was advancing up the street, saying and scattering the protesters at that point for people to clear the area. And so we walked away. I'm sorry? You're under arrest. Okay. Do you mind telling me why I'm under arrest, sir? Why am I under arrest, sir? If you're just tuning in, you are watching our correspondent Omar Jimenez. E come sentite anche l'imbarazzo della conduttrice dagli studi centrali della CNN, Omar Jimenez, giornalista afroamericano, lo sottolineo ancora una volta, adesso vi spiego perché. Chiede: ma perché sono sotto arresto? E non viene ricevuta risposta, viene ammanettato e portato via. La telecamera è accesa, rimane lì sul cavalletto. Gli altri due appartenenti, i membri della troupe della CNN, rimangono alcuni minuti in più, ma poi sempre a telecamera accesa vengono portati via anche loro due. Ebbene, mentre Omar Jimenez veniva trattato in questo modo, allo stesso tempo Josh Campbell, ed è un tweet di 18 minuti fa della CNN, che è invece un giornalista bianco, veniva trattato, secondo le sue parole, in maniera profondamente diversa. Tra pochissimo arriverò ai vostri messaggi che stanno arrivando al 349-238-6666, però siccome pochi minuti fa abbiamo raggiunto, sostanzialmente l'abbiamo tirato giù dal letto, anche se molti dei corrispondenti dal Minnesota, da Minneapolis in particolare, non hanno proprio chiuso occhio in questi giorni, in queste notti. Abbiamo raggiunto Kevin Diaz, redattore politico del quotidiano Star Tribune di Minneapolis. Sentite quali sono gli effetti politici a livello locale e nazionale dei disordini che stanno attanagliando la città. The unrest in Minneapolis and St. Paul is very significant because this is the central part of a battleground state. E come sentite, il collega dice, i disordini a Minneapolis e St. Paul sono importanti, siamo in uno stato molto conteso per la politica americana. Il Minnesota tradizionalmente è sempre stato democratico e liberale, ma la situazione sta cambiando. Trump ha promesso che otterrà una vittoria in Minnesota nelle elezioni di novembre e se ci riuscisse questo potrebbe assicurargli la rielezione. È difficile dire quali saranno le conseguenze perché entrambi gli schieramenti si sono mobilitati, sia coloro che sono critici verso la polizia e vogliono riforme, sia coloro che vedono la nostra società cadere a pezzi e la disgregazione dello Stato di diritto. Ho paura, conclude Kevin Diaz dello Star Tribune di Minneapolis, che tutto questo andrà solo a polarizzare ulteriormente la politica e la società americana, più di quanto già non lo sia sotto il presidente Trump. American politics and American society even more than it already is under President Donald Trump. Dalla voce di Kevin Diaz, dalla prima linea tutta giudiziaria di cronaca stretta ma anche politica di Minneapolis, Minnesota, allo Star Tribune, un giornale locale raggiunto pochi istanti fa da Antonio Talia. È vero che l'assassino di Floyd era già stato segnalato per atteggiamenti non consoni, questo non glielo so dire. Un ascoltatore fa una domanda che adesso prego la redazione di fare una verifica al volissimo. Qualcuno mi scrive: vergogna, siete fake news. Qualcuno si scaglia contro la polizia statunitense con epiteti francamente irripetibili. Qualcun altro si chiede quali saranno le conseguenze sulle elezioni. Mobiliterà l'elettorato afroamericano in favore dell'ex vice di Obama, Biden. Però l'ascoltatore intelligentemente dice: conta più questo che il nome. Oppure tornerà apatico come nel 2016, disincantato verso il sistema. Un altro ascoltatore, un particolare che mi ha colpito molto, è il fatto che il poliziotto avesse una mano in tasca, e si sta riferendo a quel gesto incredibile durato 8 minuti, come uno che in relax si fuma una sigaretta. Io concordo, il video devo dire è drammaticamente scioccante, perché si ha davvero la sensazione del senso di impunità di questi quattro agenti. L'uomo è ammanettato a terra, è a faccia in giù, è assolutamente inoffensivo e chiaramente è un abuso di forza, ma ingiustificato e immotivato. Qualcun altro si scaglia contro l'America di Trump sostenendo che è una dittatura. Però attenzione, non vorrei, come dire, vorrei che sostanziaste anche un pochino un po' il dibattito. Qui a Nessun Luogo è Lontano, gli epiteti, le emozioni ci stanno, lo dico ancora una volta, mi ha turbato profondamente quel video. Però proviamo a essere più laici, a ragionare un po' su quelli che sono i contenuti, le modalità e soprattutto il perché ancora una volta è accaduto qualcosa di simile. Ci soccorre in questa analisi il professor Stefano Luconi, insegna storia degli Stati Uniti d'America all'Università di Padova. Professor Luconi, ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano. Buonasera, grazie di avermi invitato di nuovo. Allora, professor Luconi, lei segue con particolare attenzione e ormai da tanto tempo quelle che sono le tensioni fra le forze dell'ordine statunitensi e la comunità, soprattutto quella afroamericana. Mi corregga subito se pongo male la domanda. Che problema ha la polizia statunitense? Ma direi che la domanda non è posta male. C'è un problema di brutalità, di violenza quasi sistematica nei confronti degli afroamericani. Negli ultimi tempi c'era stato quasi un calo di attenzione rispetto a questi episodi, che adesso sono tornati alla luce del sole in maniera eclatante, con quelle immagini così drammatiche e così scioccanti. Però c'è una costante, e c'è una costante anche nel Minnesota. Io ricordo il caso di Philando Castile, che nel luglio del 2016 fu ucciso a freddo da un poliziotto che lo aveva fermato mentre era in auto. L'automobilista afroamericano aveva dichiarato di avere un'arma regolarmente dichiarata, perché aveva il porto d'armi, e mentre faceva il gesto di tirar fuori i documenti è stato freddato dalla gente, sì, sotto l'occhio della compagna di questo afroamericano, sì, con una ragazzina sul sedile posteriore. Quindi direi che c'è purtroppo una drammatica tradizione specifica nel Minnesota di brutalità da parte della polizia. Sì. Professor Luconi, c'entra il fatto che la società americana è pesantemente armata, c'è un accesso alle armi molto facile? Ho letto tante analisi in cui, mettendosi nei panni delle forze dell'ordine, si diceva: attenzione, io poliziotto, quando fermo un automobilista non so che cosa possa tirar fuori dal cruscotto, e quindi è come se ci fosse un livello di allerta e di tensione anche psicologica estremamente alto. Basta giustificare questi numeri che tra pochissimo fotograferemo come al solito qui in Nessun Luogo? No, non basta, perché a Cincinnati, sempre a metà degli anni 2010, è stato ucciso un ragazzino di 13 anni che aveva chiaramente una pistola giocattolo in mano, e se vediamo il video è agghiacciante. Non c'è nessun rischio che la persona fermata possa tirar fuori qualsiasi arma. È completamente immobilizzato, è completamente inoffensivo, c'è una volontà di accanimento. Sembra quasi che sia tutto lecito quando davanti c'è una persona afroamericana o anche ispanica, e i limiti, i controlli, i freni ci siano soltanto quando ci sono delle persone bianche. Con la voce del commento del professor Stefano Luconi, docente di storia degli Stati Uniti d'America, Università di Padova, stiamo cercando di entrare tra le pieghe di quella che è una pratica brutale, nelle parole del professor Luconi, anche quasi abitudinaria in alcune zone degli Stati Uniti, la violenza, l'eccesso di violenza, la brutalità da parte della polizia. Le levate di scudi sono state tantissime, ci si è messo un noto giocatore di basket, LeBron James, ci si è messa la pop star come Madonna, gli hashtag sono andati per la maggiore I can breathe, e così non posso respirare, così rispondo anche a un ascoltatore che scrive: io penso che il poliziotto non si rendesse conto o non sentisse che all'arrestato dicesse che gli mancava il fiato, lo ha detto parecchie volte, si sentiva dall'audio del telefonino con cui sono stati fatti i video. E in ogni caso io mi auguro e mi aspetto che un poliziotto che applica quella manovra, cioè premere con il ginocchio sulla nuca e sul collo, sappia perfettamente che stai togliendo il respiro. Peraltro a un certo punto l'arrestato smette di muoversi e la gente attorno chiede: controllate se è ancora vivo. Una delle ultime frasi pronunciate è stata: vi prego non uccidetemi. Io trovo che tutto questo non possa portare ad argomentare il fatto che il poliziotto non se ne sia accorto. Detto ciò, ci auguriamo tutti, ma qua parlo come cittadino, non come giornalista, evidentemente, che vi sia un'investigazione, che vi sia una magistratura che vada davvero a fondo, perché quello che è accaduto è qualcosa veramente di ignominioso, e se fosse confermato che la responsabilità è loro, beh, allora dovrebbero pagare sicuramente. Professor Luconi, arrivano un po' di domande da parte degli ascoltatori, se sia soltanto la comunità afroamericana a subire questo eccesso di violenza o anche per esempio i latinos. Ascoltiamo in 90 secondi quello che è l'atteggiamento generalizzato della polizia verso le minoranze. Negli Stati Uniti, più di 2 persone al giorno perdono la vita per un colpo d'arma da fuoco sparato da agenti di polizia in servizio. Nel corso del 2019 il totale delle vittime è stato di 1014, nel 2018 erano state 992 e nei primi 5 mesi del 2020 il numero delle vittime ha già toccato quota 400. A fornire i dati è il Washington Post, che da 5 anni registra questi episodi per colmare una lacuna nella raccolta ufficiale dei dati da parte delle autorità statunitensi. Complessivamente, dal 2015 ad oggi, le persone uccise dalla polizia sono state più di 5.000. Sebbene in numeri assoluti la maggior parte delle vittime siano cittadini bianchi, un'analisi più attenta dei dati mette in luce una situazione diversa. Gli afroamericani, infatti, rappresentano il 23% delle persone uccise da agenti di polizia, sebbene siano solo il 13% della popolazione degli Stati Uniti. Un recente articolo pubblicato sulla rivista ufficiale dell'Accademia Nazionale delle Scienze degli Stati Uniti mette in evidenza come il rischio di essere ucciso da un agente di polizia sia molto più elevato per le persone di colore. Rispetto ai cittadini bianchi, infatti, gli uomini di colore sono 2,5 volte più a rischio, mentre per le donne di colore il rischio di essere uccise da un agente di polizia è 1,4 volte più elevato rispetto alle donne bianche. Lo studio conclude che i giovani di colore corrono un rischio eccezionalmente alto di essere uccisi dalla polizia. E questa è in qualche modo anche la ripartizione etnica del rischio che si corre nel passeggiare, nel avere una vita in alcune situazioni negli Stati Uniti. Tra pochissimo torneremo con il professor Stefano Luconi, però intanto vi posso dare conferma di quella che era una domanda di un ascoltatore a cui un altro ascoltatore dava risposta. Derek Chauvin, che è il poliziotto che ha provocato la morte, che ha ucciso il cittadino afroamericano George Floyd, aveva avuto una serie di procedimenti, almeno 20 procedimenti, 2 lettere di reprimenda contro di lui, e una serie di abusi testimoniati proprio durante i suoi 19 anni di carriera, lo riporta il Washington Post. Oltre al Chauvin, fra l'altro, mi segnala la redazione, è stato arruolato nel 2001. Sto leggendo dall'inglese, ecco, c'è il database della Minneapolis Communities United Against Police Brutality, sono tanti gli osservatori da questo punto di vista. Aveva abusato anche delle armi da fuoco in casi che non richiedevano affatto l'utilizzo di sparare. Questo, vabbè, il poliziotto che per il momento è stato licenziato. Piccola pausa, poi torniamo col professor Luconi. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta: Nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. In questa puntata di Nessun Luogo Lontano proviamo ad analizzare quelle che sono le più profonde motivazioni di quello che è accaduto. L'uccisione a sangue freddo di un cittadino 46enne afroamericano, questo avveniva 3 giorni fa, soffocato dopo 8 minuti di lenta agonia. Poi le proteste, le manifestazioni in varie città, soprattutto in Minneapolis, luogo dell'accaduto. Tra pochissimo vi porterò ancora tra le strade di Minneapolis, però fatemi fare l'ultima domanda al professor Lucconi, esperto di storia degli Stati Uniti, Università di Padova, sulle ricadute politiche di quello che sta accadendo in questo momento. Professor Lucconi, vede la possibilità che l'elettorato si sposti in qualche modo su quello che sta accadendo in questi giorni? 3 giorni di proteste consecutivi sono già tanti. Ma su questo non sarei molto sicuro. Direi che l'elettorato statunitense è molto polarizzato in due fronti rigidamente contrapposti, e quello che succede non fa altro che rafforzare i sostenitori di Trump nel loro sostegno a Trump e gli antagonisti di Trump nel loro antagonismo a Trump. La comunità afroamericana tradizionalmente vota democratico, e quindi il caso di Minneapolis non dovrebbe spostare nessun equilibrio. Gli afroamericani sono già schierati con i democratici. Sì. Forse qualche moderato repubblicano potrebbe prendere le distanze dal presidente, che si dimostra come sempre poco statista nei momenti di emergenza. Le dichiarazioni che ha fatto Trump non hanno fatto altro che gettare benzina sul fuoco, perché anziché invitare alla calma e alla moderazione, se ne è uscito dicendo che quando cominciano i saccheggi, allora cominciano anche le sparatorie, sì, sottinteso da parte delle forze dell'ordine, che non, sì, è una maniera per riportare la calma e riportare la serenità. Sì, non c'è dubbio. L'ultimissima domanda, se può in massima sintesi rispondere, c'è qualche ascoltatore, qualcuno anche senza particolare garbo, devo dire, forse sono più pericolosi i neri, non credete? E qualcun altro che dice la popolazione carceraria è soprattutto nera, quindi vuol dire che i neri, gli afroamericani, vivono in condizioni di disagio e quindi sono portati a commettere più reati. Riesce in sintesi, professor Lucconi, a spiegarci se esista un qualche circolo vizioso di questo tipo? Non direi assolutamente, direi che gli afroamericani sono tendenzialmente poveri. La giustizia negli Stati Uniti costa, i poveri non si possono avvalere di buoni avvocati, e questa è la ragione per la quale gli afroamericani sono sovrarappresentati nella popolazione carceraria. Non perché sono più inclini al crimine o perché le contingenze le portano a commettere il crimine. Purtroppo non hanno i mezzi finanziari per potersi pagare un buon collegio di difesa, e quindi finiscono molto spesso condannati perché sono costretti a valersi o di avvocati di ufficio, certo, o di avvocati alle prime esperienze. Certo, ed è anche il motivo per cui in particolare sulla comunità ispanica e quella afroamericana anche il Covid-19 ha impattato in maniera più decisiva, condizioni di maggiore indigenza. Grazie mille ancora una volta, professor Stefano Lucconi, lo ricordo, professore di storia degli Stati Uniti d'America, Università di Padova. Buona giornata e buon lavoro. Vado subito ai messaggi degli ascoltatori che arrivano al 349-238-6666. Condannare il poliziotto per omicidio volontario e reprimere le rivolte violente, così un ascoltatore. Qualcuno scrive: io credo che Trump informalmente fomenti anche questi atti. Qualcuno stigmatizza: basta parlare di sogno americano, terra dell'opportunità, quello stato. Gli Stati Uniti hanno inventato la schiavitù per trasformarla in segregazione razziale, devono ancora pagare per l'annientamento degli indiani nativi. Insomma, un messaggio molto lungo e anche molto feroce, ma sostanzialmente, e questo è Francesco l'ascoltatore, spero di riassumere bene, che chiude il messaggio dicendo: fallimento del welfare. In sostanza imputa agli Stati Uniti, se ben capisco, una certa acerbità, anche una certa mancanza di maturazione su alcune dinamiche, sul superare alcune cesure storiche. Sono tantissimi i messaggi che stanno arrivando al 349-238-6666. Prima però voglio tornare alla prima linea, Minneapolis, Minnesota, con le parole di Kevin Diaz, redattore politico del quotidiano Star Tribune di Minneapolis. I poliziotti coinvolti sono stati licenziati, ma non ancora accusati. Questo fatto sta destando parecchio scalpore anche tra i nostri ascoltatori. Abbiamo chiesto al giornalista che cosa può accadere. Sentite. Yes, there were 4 officers involved and they've all been fired. Fired as in not just suspended but fired. E come sentite, stressa immediatamente il fatto che non sono stati sospesi i 4 poliziotti, ma sono stati licenziati. Fired, dice chiaramente. Si tratta senza dubbio, continua il giornalista, di una risposta molto veloce da parte del capo della polizia. Normalmente, in caso di cattiva condotta da parte dei poliziotti, ci sono lunghe investigazioni e vari ricorsi prima che qualsiasi azione disciplinare venga messa in pratica. Questo fatto è molto inusuale, quasi senza precedenti, direi, e si sta riferendo al licenziamento in tronco. Rispetto alle accuse di omicidio, continua Kevin Diaz, diciamo che è un aspetto molto controverso. Ci sono persone che ritengono che gli agenti debbano essere messi in prigione immediatamente. Normalmente si ha un'indagine, in Italia come in altre parti del mondo, si fanno indagini e poi sulla base delle prove si decide se vi siano gli estremi per un arresto, a meno che non si sia colti sul fatto. Ci sono però persone che ritengono che, avendo visto il video, è come se l'omicida fosse stato colto sul fatto. Se così fosse, sarebbe, continua Kevin Diaz, assolutamente inusuale nel quadro della cattiva condotta di ufficiali di polizia, ma ovviamente c'è molta pressione in questo momento per agire in maniera diversa. E poi, come sentite, dice: prima o poi i quattro poliziotti dovranno fare i conti con delle accuse formali, ma è ancora presto per dirlo. Allora, dalle parole di Kevin Diaz, redattore politico del quotidiano Star Tribune di Minneapolis, passiamo ad altre parole, quelle che arrivano da un altro testimone, sempre Minneapolis. Lui è Brad Svensson, è un imprenditore che ha alcuni negozi di arredamento. Si era candidato al Senato come indipendente per un distretto del Minnesota. Poche ore fa, proprio questa notte, e l'abbiamo raggiunto sostanzialmente mentre rientrava in auto e la parcheggiava nel suo garage, mentre scoppiavano gli scontri, si è messo a guidare per Minneapolis per capire cosa stava accadendo. Ecco, sentite cosa dice. Allora, non so esattamente se si sia verificato un unico, specifico incidente mentre guidavo per la città, e specificatamente per quella zona di Minneapolis in cui si sono verificati più scontri. Quello che so è che l'intera situazione era un po' folle, fuori controllo. Mi pare che l'atteggiamento delle persone che erano lì era radicalmente cambiato rispetto a qualche ora prima. Guidando per quelle strade ho provato questa bizzarra sensazione di terrore. È molto difficile da definire, ma mi è sembrato tutto sbagliato. Ho sentito dei colpi di arma da fuoco già prima di mettermi alla guida, e poi gli spari sono aumentati mentre guidavo. Quindi sapevo di non essere così vicino, ma ero lo stesso spaventato. Era come un film di fantascienza, non sembrava reale. Ma il pericolo, questa minaccia senza nome, era presente. Era spaventoso. Semplicemente trovarsi lì era spaventoso. Penso che questa sia la risposta migliore. La voce e il racconto di Brad Svensson, tirato giù dal letto, anzi non l'abbiamo proprio lasciato andare a letto poche ore fa, stava guidando per le strade di Minneapolis e raccontava quello che stava accadendo. Dicevo, è il terzo giorno di scontri e di disordini, anche piuttosto violenti. Andiamo sulle strade, quelle italiane stavolta, poi torneremo ancora una volta sulle strade di Minneapolis con la voce di Brad Svensson per capire cosa è andato storto, perché tre notti di seguito di conflitto così elevato. Nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. L'ultima parte di Nessun Luogo Lontano, che si concentrerà soprattutto anche sulle vostre reazioni al 349-238-6666. C'è ancora l'ascoltatore, non so se è lo stesso di prima, credo un altro. Incredibile quello che fate, continuate a confermare che Trump ha ragione su tutto. Se fossi in voi farei un passo indietro. Quanto pensate di tenere su la baracca raccontando solo bugie e deviando completamente la realtà? Però allora io, guardi, gentile ascoltatore, non voglio fare una questione personale. Peraltro sul suo profilo WhatsApp c'è la foto di Trump, se vedo bene, mi sembra di sì. O lei sostanzia però tutte le bugie che io dico, oppure non posso perdere 10 secondi di tempo e sottrarre contenuti alla trasmissione per un'accusa così grave ma non sostanziata. Poi detto ciò non voglio litigare. Vi dicevo, torniamo a percorrere le strade di Minneapolis. Sono stati momenti particolarmente concitati, accesi e violenti. Sicuramente alcuni facinorosi si sono inseriti nelle proteste, che per la maggior parte erano pacifiche. Brad Svensson, imprenditore, candidato al Senato indipendente, ci racconta che cosa secondo lui ha fatto precipitare la svolta pacifica, da pacifica in non pacifica, delle violenze, delle proteste. Well, each day was different. The first day, Tuesday, was 80% peaceful, 20% crazy, and semi-violent. Ogni giorno è stato diverso dall'altro. Il primo giorno, martedì, è stata una giornata all'80% pacifica e folle per il 20%, perché si è comunque verificata qualche violenza. La polizia era presente durante la marcia della prima protesta, che non definirei neanche una vera protesta, quanto più un raduno per mostrare sostegno alla vittima. La gente era lì per dare voce alla propria rabbia. La polizia era presente e all'improvviso si sono verificati alcuni scontri limitati. Il giorno successivo, quindi giovedì, è stata una giornata di lutto, ma un lutto molto pacifico, fino al pomeriggio. Poi, quando l'orologio ha segnato le 4, la polizia ha iniziato a spararci contro con i lacrimogeni. Sono stato colpito dai lacrimogeni 6 volte e avevo i proiettili di gomma che mi volavano intorno, a, direi, pochi millimetri di distanza. Quei proiettili erano così vicini che potevo sentirli. E i proiettili di gomma sono maledettamente dolorosi. Poi, e le dico con la massima franchezza, mi è sembrato che ieri la polizia abbia istigato la violenza. E questa è una cosa estremamente preoccupante qui in America, specialmente in Minnesota. Poi oggi la polizia ha di fatto abbandonato il distretto ed è come se avessero detto: va bene, andate avanti, bruciate tutto e radetelo al suolo, non ci importa. Mi pare che di fatto abbiano permesso ai rivoltosi di scatenare la loro rabbia più primordiale, senza alcun controllo. E io ero lì perché volevo documentare. Ma a quel punto la folla non rivolgeva più neanche la propria rabbia verso la polizia. La folla si è scagliata contro qualsiasi cosa le capitasse a tiro. Ed è diventata praticamente una zona di guerra. They took it out on everything else, and it just became a war zone. La voce di Brad Svensson, imprenditore, candidato al Senato come indipendente. Se avremo tempo vi spiegherò la sua potenziale terza via tra il fronte democratico e quello repubblicano. Diceva, ha guidato per tutta la notte per le strade di Minneapolis per cercare di raccontare. Fra l'altro su Twitter trovate il suo account e tutti i video che ha girato con il telefonino. Rispondo al volo a un ascoltatore, voleva sapere le statistiche su quanti poliziotti muoiono, le tipologie della popolazione che commettono i reati, questo per par condicio. Nel 2019, secondo i dati ufficiali, sono stati uccisi 38 poliziotti, mentre secondo le statistiche che abbiamo raccolto cercando di aggregarle al meglio possibile, nel corso del 2019 il totale delle vittime è stato 1014, quindi 1014 e 38, anche se chiaramente non ha, quando lei dice par condicio, noi non possiamo comparare il numero di cittadini uccisi col numero dei poliziotti uccisi. Secondo me c'è qualcosa che non va, perché è vero che l'uso della forza, non siamo in uno stato obesiano, l'uso della forza è demandato e legittimato semplicemente alle forze di polizia, ma allo stesso tempo le forze di polizia dovrebbero agire nel rispetto dei diritti, delle regole e senza soprattutto l'abuso di questo esercizio della forza. 349-238-6666, perché 3 giorni di disordini, si chiede o chiede a noi un ascoltatore, perché un poliziotto che uccide una persona in quel modo con tanto di video come testimonianza non può essere solo licenziato, ecco perché, così un ascoltatore, è verissimo, ma lungi da noi, non siamo né giudici né nulla, è chiaro che la deviazione, il trasformarsi in una protesta violenta chiaramente non fa bene a tutti i movimenti tipo Black Lives Matter e quant'altro. È evidente che quei facinorosi che si sono inseriti hanno in qualche modo sporcato quello che invece poteva essere una protesta ancora più efficace. Allora, vi dicevo, Brad Svensson è un candidato al Senato indipendente. Nel suo profilo Twitter si dice orgogliosamente radicale di centro. Che cosa pensa del tweet di Donald Trump nel quale ha detto quando si inizia il saccheggio si comincia a sparare? Che Twitter ha detto, attenzione, questa è istigazione alla violenza. Sentite. I'm glad that you read the proudly radical centrist. Sono lieto che abbiate letto il mio profilo, dove mi definisco un radicale di centro e orgoglioso di esserlo. Centrista è una definizione che assume significati diversi a seconda del luogo, quindi a volte è difficile da tradurre in contesti politici diversi. Ma sì, sono candidato al Congresso e non sono candidato con nessuno dei due partiti principali, né con i democratici né con i repubblicani. Mi sono presentato con un partito indipendente, quindi rappresento quella che qualcuno definirebbe una terza scelta. Alcuni di quelli che non si identificano in nessuno dei due partiti principali sono dei sostenitori di Trump. Io non lo sono. E sono tra quelli convinti che in America le persone di colore siano state sfruttate e ignorate. Fin dall'inizio della storia di questo paese. Qui a Minneapolis stiamo subendo questi scontri, queste rivolte e il totale disprezzo che proviene dalle parole o dai tweet di Trump, secondo me, dimostra un alto livello di ignoranza. Dimostra una totale mancanza di capacità di capire perché noi, come cittadini di Minneapolis, abbiamo deciso di protestare. Ora, io non ero lì per saccheggiare. Tutto quello che intendevo fare era mostrare il mio sostegno alle persone che sono state colpite direttamente dalla morte di George Floyd e alle persone di colore che sono state sistematicamente maltrattate. Martin Luther King diceva che le rivolte sono la voce degli inascoltati. E questa è una frase molto pesante. Per me gli scontri non sono affatto un bene. Gli scontri non dovrebbero avvenire e non ho alcuna intenzione di partecipare agli scontri, ma non posso neanche essere sorpreso dal fatto che persone inascoltate, persone che vengono uccise in maniere così assurde, si siano stancate e ne abbiano abbastanza della situazione e delle ridicole frasi pronunciate dal presidente Trump. Queste persone hanno perso tutto ed è rimasta loro una cosa sola: provare a proteggersi. Non hanno nessuno. Il leader del loro maledetto paese non le riconosce. Non riconosce cosa sta succedendo e perché sta succedendo e vuole che rimangano inascoltate. Questo è un comportamento inaccettabile. È malsano da parte di un presidente scrivere quelle cose a proposito delle persone che dovrebbe rappresentare. And he wants them to stay the unheard. And that's a gross and sick thing for a president to do and say about the people he's supposed to represent. E mentre il j'accuse di Brad Svensson, imprenditore, candidato indipendente al Senato, ha il peso politico relativo, quello che è, si è mosso anche Joe Biden, evidentemente si è detto furioso per il tweet di Donald Trump accusato di istigare violenza a Minneapolis, ha detto ne ho abbastanza. Il presidente fa un appello alla violenza contro cittadini americani in un momento di grande dolore per molti. Sono furioso e dovreste esserlo anche voi. Biden condanna anche l'arresto di un giornalista afroamericano alla CNN con la sua truppa, è stato arrestato mentre faceva il suo lavoro, mentre il poliziotto che ha ucciso George Floyd resta ancora libero. Così Joe Biden, però a questo punto siamo quasi in chiusura e quindi Roberta. Che è il preludio ai ringraziamenti e ai titoli di coda. Grazie a voi per essere stati all'ascolto, a tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano. L'appuntamento è domani ore 10 col meglio di, anzi c'è una sorpresa domani, state all'ascolto. E poi lunedì ore 16. Una buona serata da Gianpaolo Musumeci.